giorno, non giorno, non vale di più di un prezzo elegante per volare via. Aspetti qualcosa, lo aspetti una vita, e poi quel qualcosa era proprio l'attesa. Ciò che sei.